Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto al presidente Carlo Garofolini, che è con noi per il consueto appuntamento dell'Adico di Mestre. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi andiamo a trattare un argomento che ha già avuto risalto in questo inizio di settimana, proprio nei giornali, no? Parliamo di venditori porta a porta che sono scatenati, tra virgolette, vero? Ah, certamente, ormai penso tutti di pensare, diciamo che non finirà mai di stupirci, e sinceramente non termina come fenomeno e fa un sacco di vittime. In questo caso vogliamo proprio raccontare l'ultimo aneddoto che riguarda proprio due tipi di truffe che sono rimaste coinvolte delle famiglie, sempre utilizzando la stessa tecnica, che è quella di far firmare un catalogo e scoprire poi che in realtà hai firmato una proposta di acquisto. Come sarebbe far firmare un catalogo? Cioè vuol dire che questo venditore si presenta con un libro che ha delle immagini, delle foto? Sì, praticamente la ditta contatta la persona per telefono, diciamo si presenta un attimino, ma cerca di far abbassare la soglia di guardia alla persona che risponde, dicendo che non è obbligata a comprare, ma semplicemente ricevendo quello che è un catalogo con delle illustrazioni su quelle che sono poi degli acquisti della merce, che solamente se decide di acquistare può farlo, altrimenti può solamente sfogliarlo. Parliamo di cataloghi dove si passa dai mobili agli accessori quali scope elettriche e quant'altro, e nell'occasione di questo contatto la persona prende appuntamento con la ditta. In quell'occasione si presenta alla porta della nostra abitazione una persona tutta bella preparata, vestita appunto, e ti fa sfogliare un catalogo. Nell'occasione di questo sfogliamento ti fa firmare alla fine ti fa firmare il fatto che ti lascia questo catalogo per il omaggio, per prendere visione un po' di quelli che possono essere gli articoli che ti interessano o meno, che poi potrai pensarci quant'altro. Dopodiché, decorsi i termini per poter fare il recesso, si prendono contatto con la persona, con la vittima, mettendosi d'accordo alla consegna della merce e quindi invitandolo a pagare quanto ordinato. Incredibile. Quindi uno firma qualcosa, pensa di aver firmato sì l'accettazione di questo catalogo in omaggio, e invece si trova ad aver comprato qualche cosa. È straordinario. Era già successo negli anni addietro che una ditta adottasse questo sistema, vero? Sì, noi abbiamo avuto queste esperienze con 100 vetrine e tutte le abbiamo risolte positivamente, perché l'azienda ha ammesso di aver fatto degli errori e quindi a ricevere anche i termini, però chiaramente con l'intervento dell'Adico. Altre situazioni le abbiamo avuto con mobilifici, dove le persone andavano a vedere dei mobili e su quella che doveva essere solamente la firma di un preventivo, e in realtà poi si sono trovati a arrivare il camion un carico di camere, camerette, salotti, cucine eccetera, e in realtà anche qui le persone andavano a sottoscrivere proposte di acquisto. Oggi abbiamo questa nuova, che poi è nuova relativamente, queste aziende che invece si propongono con l'intento di consegnarti solamente un catalogo in modo che tu lo possi sfogliare ed eventualmente contattare per acquistare qualcosa. In realtà con la firma del catalogo ti rifilano delle merci e lo fanno, come detto, con astuzia, perché poi ti intimano di voler pagare successivamente a quelli che sono i termini di recesso. Ecco, possiamo fare i nomi, li faccio io, di queste sì, due nuove aziende? Mm? Certamente non c'è nessun problema. Allora, le due nuove aziende che in questo caso voi segnalate sono Essenza Casa di Bergamo e Center Market di Correggio, Reggio Emilia, che appunto utilizzano questi sistemi imbarazzanti, oserei dire. Quindi adesso a queste due persone che si sono rivolte all'Adico, voi avete già dato i consigli giusti? Ma innanzitutto abbiamo subito diffidato l'azienda a non voler proseguire nessuna forma di pagamento, ma abbiamo contestato subito il fatto con cui questo modo di vendere è stato vessatorio nei confronti delle persone che su buona fede hanno firmato acquisti inconsapevoli del tutto e per tutto di quello che stava accadendo, di quello che stavano facendo. E secondo noi non esiteremo a fare un esposto garante della concorrenza, perché riteniamo che questo atteggiamento debba essere denunciato e inviteremo sicuramente le autorità competenti ad agire nei confronti di queste aziende al fine di evitare che questi atteggiamenti possano continuare a perpetuare oggi e quindi mettere vittime a questi poveri soprattutto anziani che vivono da soli e sono sempre maggiormente esposti a questo fenomeno di questo tipo di truffa. Ecco, Carlo, mi viene in mente una cosa, no? Oltre al fatto ovviamente di fermare questo falso acquisto e di fermare i pagamenti, non si può in qualche modo ottenere anche un risarcimento, perché questa cosa è lesiva, cioè una cosa così potrebbe anche non far dormire la notte, far preoccupare le persone per il pensiero, no? E quindi mi creano un danno addirittura. Ma sicuramente i nostri uffici stanno valutando questa cosa, perché la situazione in cui poi le persone hanno ricevuto queste intimazioni di pagamento e sono persone che non certamente vivono con loro, ma che anche di fronte al rischio di dover sborsare diversi migliaia di euro sono stati veramente male, ma soprattutto poi sono convinti che saranno chi di dovere, cioè per esempio l'Agicom, come per esempio l'Authority, ad agire nei confronti di queste aziende e fare dovute verifiche per procedere poi con le note sanzioni che insomma periodicamente siamo un po' abituati a leggere nei giornali, che per effetto dell'intervento delle associazioni, i garanti insomma spesso ben volentieri intervengono. Certamente il caso particolare lo andremo a analizzare, questa è una cosa che è accaduta in queste ore, pertanto sicuramente sarà cura dell'ufficio adesso agire nel massimo della tutela e dell'interesse dei nostri soci. Ecco, per il momento i due casi che abbiamo segnalato riguardano dei veneziani, dei mestrini, ma sicuramente questa cosa sta capitando in giro per il Veneto, quindi invitiamo gli amici che fossero all'ascolto, che sanno di qualche parente, amico o magari che sia capitata una cosa del genere, insomma rivolgetevi con fiducia all'Associazione Difesa Consumatori, associazionedifesaconsumatori.it è il sito, quindi da lì poi potete trovare i numeri di telefono per contattare l'Adico. A questo punto, Carlo, io ti ringrazio per averci così segnalato ancora una volta questi casi che vanno debellati e che quindi vedono in voi dei paladini della difesa del consumatore. Ci risentiamo per un prossimo appuntamento tra qualche giorno. Certamente, grazie Francesco, e invito sempre gli ascoltatori, qualora che individuino o si trovino in questa situazione, a segnalarcele. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.